È partita il 2 dicembre la corsa per la presidenza dell'Autorità Nazionale Palestinese. La Commissione Elettorale Centrale ha annunciato che 10 candidati sono scesi in lizza, ma la lista definitiva verrà pubblicata il 15 dicembre. La campagna elettorale inizierà il 27 dicembre e terminerà alle 7 del mattino dell'8 gennaio, alla vigilia del voto. Tra i nomi dei candidati ci sarà sicuramente Mahmoud Abbas, detto Abu Mazen, che è il candidato ufficiale di Al-Fatah, il partito del defunto Yasser Arafat. Ma della partita dovrebbe essere anche Marwan Barghouti, segretario generale di Fatah nei territori occupati, attualmente detenuto in Israele. Una candidatura che, se confermata, testimonierebbe una frattura nel partito e probabilmente nell'intera società palestinese. Abbiamo raggiunto Bilal Salameh, professore di sociologia all'Università di Betlemme e coordinatore del progetto Med Hebron, Media e Democrazia dal Basso. I think there is some hesitating from Marwan Barghouti to be involved in the elections or not. And as we know, he claimed or he announced before 1 month that he want to enter the elections. After 1 week, he announced that I will not be involved in these elections. So until this moment, there is no limited position from Marwan Barghouti that he is going to be participate in the Palestinian election, the next Palestinian election in this this time. As we know, Abu Mazen and Marwan Barghouti, all of them is belong to Fatah, and this is decisions. We should know that there is internal power and there is international power for the politics things, and for Fatah they are working for internal and international power in the world. So they took or the, take the decisions that Abu Mazen will be represented of Fatah. So if Marwan Barghouti will still insist that he's going to the elections, it means that he will be separated Fatah for two parties, especially the Yes people who are going to support Marwan Barghouti, and it will be there some problem like two parties in one party. But as I guess, I think he will be withdraw before. Two or three days or 4 days before the time, the last time or the deadline for the elections to start, I think that there's some political compromising. It will be between Abu Mazen and Marwan Barghouti, and it will be discuss his situations because he's in jail and maybe he will be released or something like this. Secondo Bilal, la decisione di Barghouti non è ancora definitiva. Nell'ultimo mese le dichiarazioni in proposito sono state contrastanti. Sia Abu Mazen che Barghouti fanno parte di Fatah e queste elezioni hanno un peso sia sui rapporti interni al partito che sul piano internazionale. Se Barghouti porterà avanti la sua decisione, il partito si spaccherà in due fazioni. Secondo me, continua Bilal, Barghouti si ritirerà definitivamente a qualche giorno dalla scadenza, perché si raggiungerà un compromesso politico, dove sarà affrontata anche la questione della sua detenzione alla ricerca di una sua scarcerazione. Nella lista dei candidati alla presidenza non c'è alcuna donna ed il problema si ripropone anche per le contemporanee elezioni parlamentari. Ascoltiamo ancora Bilal sulla difficoltà nell'applicare la legge che istituisce una quota di rappresentanza femminile. There is two laws, the old one and the new one. The new one are calling for the mixed elections for the kind of the election, and the first one is the old one is like territories law. It means that from each city will be represent some person who are going to be representing this city for the Palestinian parliament. And we have now a problem because they do not regard it as the second one, the new one, it will be deleted. And they are working to work in the old one. It's calling for territories list, not for mixed like... What's represented in like in America or in Switzerland. For the woman quota, it was some initiating and discussions and dialogue in the Palestinian parliament for the woman, and they refused or they deleted the second law which speak about the quota or the list for the woman. It should be represented by 20%. And after this decision from Palestinian parliament, the NGOs, the Palestinians, non-governmental organizations make like networking for this decision and start to put pressure in the government to work in this list, and it should be, the woman should be represented. And I think now they are working and the woman now representing representing at least for the 20% from the Palestinian society. So it gave a chance for her to participate. If it's if they still do not want to work, it will be, of course, affected in the political participation for the woman. Ci sono due leggi in vigore, sostiene il nostro ospite. Una nuova sulla rappresentanza mista e una vecchia a base territoriale. C'è un problema derivante dal fatto che il Parlamento ha deciso di non applicare la nuova legge, che istituiva una quota di presenza femminile al 20%. Diverse associazioni e organizzazioni non governative palestinesi stanno facendo pressioni sul Parlamento perché questa scelta sia revocata, continua Bilal, ma se così non dovesse essere, ne risentirebbe sicuramente la partecipazione femminile alle elezioni. E a proposito di partecipazione popolare, l'intero processo elettorale è però minato dall'occupazione militare israeliana e abbiamo chiesto a Bilal delle riflessioni sul significato che avrebbe un'alta partecipazione al voto. The Palestinian society is like initiative people and he won't really to apply the democracy for his society. But you know, there is some contradiction sometimes you feel between the occupations and the elections, the democracy. So it's like two status quo, between the liberation's status and the construction's status, between the state and the election and democracy, and to resist against the occupation. These things make the people hesitating to be involved in the elections, and it will be like it will not be work because now and everything is appear because most of the Israel want Abu Mazen and the European Commission want Abu Mazen and America now want Abu Mazen. So it will be the election it will not be so much effective if the people involved or not involved. This is the problem that we are facing. But for the democracy, all of the Palestinians really want to apply democracy in the Palestinian society to solve their problem. And before we are speaking for the right of the person to go to the election and voting for his voice, we have to speak about the economic situation, we have to speak about the psychological problem, we have to speak about the unemployment. We have a lot of these needs and problems that the Palestinian society are facing it, and it needs, it's necessary to solve this problem. After that, we can speak about the elections and the political participation, and it will be more effective than this situation. C'è una gran voglia di democrazia nella società palestinese, sostiene Bilal, ma c'è una forte contraddizione tra la fase costituente delle elezioni e la resistenza all'occupazione militare. Questo rallenta la partecipazione popolare al processo elettorale e tra l'altro la scelta di Abu Mazen è appoggiata da alcuni settori israeliani, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti. Quindi le elezioni finiranno probabilmente per ratificare questa volontà e la partecipazione popolare avrà poca influenza sul processo. Ma la voglia di democrazia del popolo palestinese e la possibilità di esprimerla tramite libere elezioni è subordinata alla soluzione di altre gravi questioni, come la situazione economica, i problemi psicologici legati all'occupazione, la disoccupazione e tanti altri problemi. Solo dopo aver affrontato questi temi sarà possibile parlare di partecipazione popolare alle elezioni, ed allora avrà un senso. Leopoldo Calabria, amisnet.org.